9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon primo febbraio. È bastato annunciare qualche minuto fa il tema della puntata che abbiamo scelto che immediatamente, bam, sono arrivati un bel po' di messaggi di ascoltatori che dicono che averlo scelto sarebbe un insulto alla mia intelligenza. Vedremo cosa volete che vi dica. La mia opinione è questa: se c'è un settimanale come Panorama, e oggi avremo con noi il suo direttore Giorgio Mulè, che esce con un'ipotesi di ricostruzione di fatti che hanno avuto un impatto incredibile, fortissimo nella vita politica italiana, come quelli della scorsa primavera, estate, relativi alle donnine a Palazzo Grazioli e a Berlusconi, e in particolare al caso D'Addario, e avanza l'ipotesi che vi siano indagini in corso alla procura di Bari, da cui proviene la D'Addario, che approfondiscono l'ipotesi che la D'Addario, per i suoi risvolti personali, per chi conosceva, per chi poteva averla indotta a tutto questo, sia stata protagonista di una operazione, non voglio dire pianificata, ma potrebbe essere questa l'ipotesi, al centro tra l'altro di moltissimi scambi di opinioni, informazioni preventive, telefonate tra politici, giornalisti appartenenti a diverse state dell'informazione e così via. A me non sembra una ipotesi di fronte alla quale dire che tentare di capirci qualcosa sia un insulto all'intelligenza, come immediatamente è partito il fuoco di fucileria di fronte ad alcuni ascoltatori. Mi sembra che la cosa migliore per tentare di capire questa vicenda, che ha obiettivamente dato il là per 9 mesi interi al dibattito politico italiano, prima che l'attenzione si spostasse poi su altre cose, ancora sui processi da una parte, su chi a Piazza Duomo ha tirato il Duomo in faccia a Berlusconi e così via. Ma per 9 mesi, in buona sostanza, il 2009 è stato occupato da questo, prima dal Noemi Gate e poi dal Dario Gate e così via. Quindi a me non sembra un'ipotesi secondaria. Vi dirò in pochissime parole, prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, che cosa ho capito io e che cosa mi ha colpito da giornalista e da lettore di quello che ho letto, dopo che venerdì Panorama, per la firma di Amadori, il suo giornalista, e con commento del suo direttore Mulè, tenta di offrire ai suoi lettori e a tutte quante le testate italiane l'ipotesi che vi sia appunto sotto la guida del procuratore Laudati a Bari una indagine approfondita intorno al retroterra delle iniziative della D'Addario e poi delle dichiarazioni della D'Addario rese nella sua intervista a giugno dell'anno scorso al Corriere della Sera, della sua disponibilità a renderle, poi nelle settimane successive della pubblicazione su Repubblica di verbali che avrebbero dovuto essere, non dico secretati, che naturalmente sì, ma neanche sbobinati, e invece li leggiamo poi su Repubblica e così via. La mia opinione è che mi ha molto colpito le seguenti faccende. Primo, che la procura di Bari ha aspettato quasi 48 ore prima di una nota nella quale in maniera circostanziata ha affermato che in relazione alle ipotesi eccetera eccetera è stata molto circostanziata, una smentita molto tecnicamente costruita sull'ipotesi concreta che vi possa essere davvero un'iscrizione per quei reati che dice Panorama, e essendo così precisa questa smentita l'ho messa poi in relazione a ciò che poi l'indomani sul sabato ho letto su un giornale che considero mediamente molto ben informato su quanto quanto dicono, attestano le procure, e cioè Repubblica. Ebbene, Repubblica l'indomani scrive testualmente, dopo aver dato conto della smentita. Intanto però la bolla è scoppiata. Ieri il procuratore capo Antonio Laudati era a Roma per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, ma tra i sostituiti c'è gran fermento. E cosa risaputa? Questo sto leggendo il pezzo di sabato 30 gennaio a firma Gabriella De Matteis, Giuliano Foschini su Repubblica. E cosa risaputa da tempo dell'esistenza di un'indagine seria e delicata sulle fughe di notizie, cioè quelle appunto relative ai verbali da dare e così via. E cosa ha risaputo dell'esistenza di questa indagine, così come non era un mistero che dopo le denunce dell'ex convivente della Daddario, Giuseppe Barba, detto Pinuccio Spaghetto, pregiudicato barese accusato di essere stato lo sfruttatore di Patrizia, le indagini si siano concentrate proprio su Patrizia e sulla sua vita privata, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mi limito da lettore e da collega che ha stima di ciò che si scrive su giornali che sono molto ben informati, che poi possono avere opinioni politiche diverse, che di sicuro dopo la lettura di quanto aveva proposto Panorama e dopo che Repubblica stessa, e vedremo poi che cosa ha scritto il Fatto Quotidiano, avremo colleghi della testata che anche segue ovviamente con un punto di vista diverso la Panorama ma con molta passione queste vicende, la mia impressione è che io ho capito che delle indagini ci sono davvero, punto numero uno, e quindi mi pare che valga proprio la pena di approfondire il tutto per tentare di capire che cosa vi stia dietro e che cosa bisogna aspettarsi. Ecco gli ospiti che abbiamo con noi stamattina. Innanzitutto il direttore di Panorama, Giorgio Giumulè, buongiorno direttore. Buongiorno Oscar. Peter Gomez, giornalista del Fatto Quotidiano, appunto, buongiorno Peter. Buongiorno. E poi Maddalena Tulanti, vice direttore del Corriere del Mezzogiorno, quotidiano che ha avuto una parte rilevante nell'opera di scavo giornalistico e di lancio delle notizie di tutta la vicenda e che è stata anche autrice proprio con Patrizia Daddario del libro Gradisca Presidente, tutta la verità della ESCOL, più famosa al mondo. Buongiorno Maddalena Tulanti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, comincerei dal direttore di Panorama, a cui do la parola per dire a qualche giorno dallo scoop qual è l'opinione sua sugli sviluppi, su ciò che è stato scritto dagli altri giornali, su ciò che ha detto la Procura, cosa bisogna attendersi insomma da questa vicenda in questa settimana. Bah, innanzitutto si è molto soffermati sul titolo di Panorama che in copertina recita Il complotto. Si è voluto far discendere da questo titolo un'ipotesi di reato che non è contemplata nel nostro codice penale. Allora, cominciamo da un chiarimento. Complotto in italiano, mi rifaccio al De Vottori, significa intrigo rivolto copertamente a danno di enti o persone. Avendo chiara questa definizione, ne discende che a Bari c'è un'inchiesta, non perché lo dico io, ma perché è perché non perché faccio parte di un gruppo editoriale che è afferente alla famiglia del Presidente del Consiglio, perché in questa vicenda bisognerebbe sforzarsi di, in questa come in tutte le altre, di lasciare totalmente da parte presunte etichette politiche. Io cerco di fare il mio lavoro, può riuscirci più o meno bene o più o meno male. Allora, nei riscontri, nelle notizie che noi abbiamo raccolto a Bari, noi abbiamo parlato di riscontri granitici, perché le notizie che abbiamo riferito evidentemente sono state riscontrate e confermate da autorevoli fonti, così come fanno normalmente i giornalisti, due di questi sono oggi in linea con noi. Cosa c'è da aspettarsi? La smentita della Procura di Bari fa riferimento a un reato che riguarda una produzione di accordi fraudolenti per una calunniosa rappresentazione processuale riguardo a magistrati politici e giornalisti, rispetto ai quali non abbiamo mai scritto che sono indagati. Noi abbiamo detto c'è un'indagine al centro della quale c'è la Daddario, e rispetto alla quale la Procura della Repubblica di Bari vuol capire se ci sono stati degli intrighi che portano alla parola complotto. Le più autorevoli, come dire, conferme al fatto che tutto ciò a Bari è in corso, io le ho ricavate leggendo, peraltro, a parte, come dire, tutto il materiale che noi abbiamo e che peraltro tireremo fuori anche venerdì prossimo, le trovo leggendo anche il Fatto del collega Gomez di sabato, perché a pagina 1, come dire, c'è un simpatico divertimento sull'autocomplotto, a pagina 3 c'è la conferma parola per parola di quello che noi abbiamo scritto. Allora, il giorno successivo apprendo sempre dal Fatto Quotidiano che ci sono delle intercettazioni tra un imprenditore vicino al PD, il Fatto Quotidiano, non Panorama, e Tarantini, in cui si solleva il seguente interrogativo. Qualcuno legato al PD chiedeva, magari per proprio conto, senza il coinvolgimento dei maggiori enti del partito, un aiuto per colpire Berlusconi ormai coinvolto nello scandalo Tarantini? E soprattutto, il dialogo avviene prima o dopo che il caso Daddario diventi di dominio pubblico? Bene, qui siamo a prima che lo scandalo scoppi o subito dopo. Apprendo sempre dalle cronache dei giornali che vi sono quattro incontri a ridosso della bomba d'Addario, in cui si incontrano un avvocato, un giornalista, un magistrato e un imprenditore vicino al PD, e la d'Addario. Allora, io, come dire, ovviamente scopro pochissimo le mie carte, però soltanto un cieco o solo un sordo non può sentire o vedere che a Bari un'inchiesta c'è, di cui dobbiamo sicuramente raccontare i contorni e di cui racconteremo i contorni. Però alzare una coltre e rinunciare alla ricerca della verità in nome di una pretesa appartenenza politica è il peggiore servizio che possiamo rendere alla verità e a quello che a un giornalista deve darsi come rotta, cioè la ricerca dei fatti. Gomez, allora le faccio tre domande. Primo, se questa indagine c'è o non c'è, perché Mulè cita appunto anche brani di articoli poi del vostro giornale. Secondo, se nella sua ricostruzione dei fatti le date, cioè le date dell'intervista chiesta dalla D'Addario al Corriere della Sera, poi l'annuncio di D'Alema preventivo dalla trasmissione annunziata delle scosse che sarebbero venute, e poi la pubblicazione dei verbali su Repubblica, rappresentano dal suo punto di vista una semplice successione di fatti sui quali non è lecito avere alcun sospetto, ma il fatto più grave naturalmente a quel punto sarebbe semplicemente che la D'Addario era parte di questo treno di femmine che andavano a Palazzo Grazioli, e se il fatto sia quello, o se invece il côté Tarantini, sanità politica pugliese, fa capire che se poi D'Alema, prima che tutto questo avvenga, dice attenzione, arrivano delle scosse, è perché in definitiva un'ipotesi di collegamenti, regie a tavolino per lucrare, per portare a colpo, a segno un grande colpo eccetera, non è del tutto illegittimo pensarlo. Voi cosa pensate nel giornale, ma lei cosa pensa in quanto pistarolo famosissimo? Nel giornale cosa penso io? Penso che Giorgio abbia, Mulè abbia una buona parte di ragione. A Bari c'è un'inchiesta che è partita molto seria sulle fughe di notizie, un'inchiesta, da quello che abbiamo capito, fatta con stili dell'inchiesta sugli omicidi, quindi molto molto seria, un'inchiesta che si è allargata anche su chi è la D'Addario e come è arrivata. Cosa abbiamo capito finora e cosa capiremo, secondo me? Può darsi, è possibile benissimo, che qualcuno all'interno del centro-sinistra pugliese abbia saputo con qualche giorno di anticipo il fatto che la D'Addario stava parlando con i magistrati o avrebbe parlato. Questo lo stabilirà l'inchiesta. Sappiamo già oggi però che al di là di questo tentativo di, forse anche riuscito, di utilizzo politico di queste notizie, che è una cosa diversa da un complotto, perché ogni volta che c'è un'inchiesta giudiziaria o un avvenimento che riguarda un politico, accade spesso che i suoi avversari, in maniera più sporca o più pulita, a seconda dei casi, cerchino di farne l'utilizzo. Al di là di questo possiamo già dire oggi che comunque la D'Addario arriva a casa di una persona che è solo vittima dei suoi comportamenti. La D'Addario non è né la prima né l'ultima donna che arriva a casa di Berlusconi. Vi ricordo che con lei arrivano altre decine e decine di ragazze. Berlusconi è presidente del Consiglio e continua a comportarsi come fosse ancora esclusivamente il proprietario della maggiore rete televisiva italiana, con la conseguenza che diventa sottoposto, in teoria o forse anche in pratica, alla possibilità di rimanere vittima di complotti, di essere ricattabile o ricattato. Detto questo, ribadisco, dobbiamo assolutamente indagare su tutto, ma tenete conto su un punto. Patrizia D'Addario va a casa di Berlusconi due volte. La prima volta munita di registratore, lo sappiamo perché abbiamo ascoltato le sue registrazioni, in ottobre. Viene invitata a rimanere e non rimane, ci tornerà una seconda volta in novembre. Se già in quel momento fosse stata una Matari, si sarebbe fermata la prima volta. Quindi giusto che indaghiamo su tutto, ma dobbiamo renderci conto che il nostro problema come cittadini è aver avuto un Presidente del Consiglio di tutti gli italiani che non si è comportato, non dal punto di vista morale, non interessa nulla a noi di tutto questo, ma dal punto di vista istituzionale in maniera consona, perché se, perché come l'è arrivata la D'Addario, lì potevano arrivare in teoria spie dei paesi dell'est, amiche dell'amico Putin, come di Gheddafi, come degli iraniani. Insomma, Berlusconi, giusto che Panorama faccia il suo lavoro, che Il Fatto faccia il suo lavoro, dobbiamo sapere tutto, ma non dimentichiamoci che il principale problema politico è il comportamento poco istituzionale di Silvio Berlusconi. Oh, non c'è dubbio. Aggiungo questo però, mi sembra che se il problema è quello della ricattabilità, cioè per così dire della permeabilità della sicurezza del Presidente del Consiglio, mi pare che sia una questione un po' diversa da quella che, di cui per mesi ci occupavamo l'anno scorso, cioè per mesi l'anno scorso, quando prima con il caso Noemi, poi ovviamente con l'uscita sistematica di queste indiscrezioni intorno al caso D'Addario e intorno ai treni di ragazza appunto di Palazzo Grazioli, ci occupammo di sono uno stile poco istituzionale, ma dell'evidente macroscopica violazione dell'ABC, di che cosa doveva essere l'interpretazione della figura del Presidente del Consiglio, perché per mesi la campagna fu questa, in altre parole, non tanto ovviamente la sicurezza intorno al Presidente del Consiglio, la sua ricattabilità. Io ho come l'impressione che ci sia una qualche difficoltà ad ammettere da parte di una parte della stampa italiana che il caso tanto giustamente, legittimamente cavalcato, dico giustamente legittimamente perché ovviamente siamo in una materia molto delicata che attiene a come si conduce vita sessuale e vita di incontri nel mentre, sia pure in una residenza privata, nel mentre si incarna la massima carica dell'esecutivo del nostro paese, e contemporaneamente però poi alla fine si è risolta in un boomerang da una parte, perché poi si vede che queste cose della politica sappiamo che poi si sono ripercosse come boomerang caso Marrazzo fino a Bologna eccetera eccetera, boomerang, perché qui su come si conducono le vite private degli uomini politici mi pare di capire che più nessuno sia al di sopra o al di sotto o al lato, a sinistra, a destra di ogni sospetto, primo. Secondo, il fatto che in Puglia Tarantini nella sanità avesse come interlocutori ovviamente chi li comandava, cioè la sinistra, mi sembra che poi diventi qualche cosa che, per così dire, sì è probabile, dice Gomez, che forse qualcuno lo abbia saputo prima, però se qualcuno l'ha saputo prima potrebbe, caro Gomez, spiegare anche perché la prima volta va da Dario, capisce un po' come funziona la cosa, si fa venire delle idee su come sfruttarlo a fini personali, ne parla con chi è, magari a quel punto a propria volta a fini personali da rivendere alla politica locale, e poi alla fine la seconda volta si tenta il pacco, un pacco un po' alla Totò perché ha a che vedere con pane, amore e fantasia, e però il pacco che poi diventa un'esplosione nucleare che da una parte è boomerang e dall'altra, se oggi si riduce alla questione della ricattabilità e della sicurezza della scorta, mettiamo la scorta più sicura. Naturalmente all'epoca la questione era: questo Presidente del Consiglio è indegno perché va a prostituta, ecco, in realtà si diceva tutt'altro. Eccoci tornati in studio, messaggio per coloro che mandano sms con insulti, dandomi del buffone, del servo, del distrattore, vi qualificate da soli. Come avete ascoltato, se ammesso che abbiate ascoltato la prima parte della trasmissione, siamo partiti da l'ipotesi che Panorama ha gettato nella stampa italiana di indagini aperte su da dove nasce, quale sia il retroterra del caso D'Addario. Abbiamo fatto parlare Giorgio Mulè, direttore di Panorama, abbiamo fatto parlare Peter Gomez, giornalista del Fatto Quotidiano. Quello che ci interessa qua è capire, voi pensatela come credete, se pensate che sono il cane al guinzaglio di qualcuno, attenzione perché questo cane potrebbe mordervi, perché l'unica cosa che fa questo cane è rispettare il suo pubblico, ma quando viene insultato forse qualche dente questo cane ce l'ha, quindi piantatela di insultare, perché non occupateci le linee con gli insulti, grazie. Allora, la domanda a Maddalena Tulanti, vice direttore del Corriere del Mezzogiorno. Il Corriere del Mezzogiorno è stato un quotidiano in prima fila nell'approfondimento di tutte queste vicende l'anno scorso, autrice con Patrizia D'Addario di Gradisca Presidente. Ecco, l'opinione che ha lei, io ricordo poi a tutti, anche a coloro in ascolto, che ciò che viene prima poi anche di tutto questo, non dimentichiamolo mai, perché lo troviamo anche sui giornali di oggi dopo l'incontro di conciliazione che c'è stato ieri a Milano, e poi la lettera comparsa su Repubblica della signora Veronica Lario, la rottura personale e privata tra la moglie e il Presidente del Consiglio, che personale e privata però non era, visto che praticamente veniva annunciata da Repubblica. Ecco, nella sua impressione, la D'Addario è la persona che ha raccontato e che ha voluto far credere, cioè quella che andava da Berlusconi per farsi appoggiare una licenza edilizia, oppure è credibile che il côté politico barese abbia partorito qualche macchinazione? Vedremo quale poi nello sviluppo dell'indagine. Lei che pensa? Io sono la persona che è stata più vicina alla D'Addario negli ultimi mesi, quindi forse la cosa più utile è parlare proprio di lei. Io sono d'accordo con i miei colleghi, se c'è un'inchiesta, come tutti pensano che ci sia, dobbiamo solo aspettare che essa sia conclusa, per il resto non possiamo dire assolutamente niente. Invece per quanto riguarda la signora, io qualcosa in più posso dirlo, dato che l'ho conosciuta un po' meglio. La signora D'Addario, per l'idea che mi sono fatta, è una vittima, è una signora che ha subito negli ultimi 10 anni della sua vita solamente umiliazioni. Io sono stata a casa sua, ho conosciuto la madre, ho conosciuto la famiglia, è una famiglia umile, è una famiglia che ha subito numerosi rovesci, voi sapete, perché la stampa ne ha parlato, se qualcuno ha letto il mio libro e il nostro libro lo sa. Tutto comincia quando il padre si ammazza, e si ammazza per rovesci, fa dei debiti dopo avere preso un rustico, perché è un imprenditore edile e anche oltre a costruire prende anche si compra questo rustico al tribunale fallimentare, e però si indebita molto più di quanto può pagare e alla fine non ce la fa più e si uccide. La signora D'Addario in quel periodo è in America, fa l'artista, lei è un illusionista. Ecco, noi parliamo della signora D'Addario semplicemente come una escort. La signora D'Addario ha un passato, oltre ad avere avuto un presente terribile, è una signora che ha avuto un mestiere e che è riuscita a farlo fin quando poi un altro signore, l'ultimo dei suoi amanti, l'ha portata sulla strada, l'ha costretta a diventare una prostituta, e lei è riuscita a mandarlo in galera attraverso questo mezzo terribile che è il registratore. Ecco, noi parliamo della D'Addario senza volere conoscere la prima parte della sua vita, come è arrivata a Palazzo Berlusconi. No, ma io aspetti, proprio per questo lo dico con rispetto, perché io il libro l'ho letto, proprio l'ho fermata su questo punto, che siccome è topico, proprio perché il registratore, in quello che raccontate nel libro, è decisivo in un momento di riscatto personale, di autoaffermazione di una personalità che dopo i rovesci, insomma, aveva dovuto scendere dei gradini fino a prostituirsi, e attraverso il registratore si incastra l'amante. La mia impressione è che poi va a Palazzo Grazioli, guarda eccetera eccetera, e dice: col registratore faccio un altro passo in su. In cosa potrebbe essere sbagliato questo ragionamento, che non è un ragionamento accusatorio, non stiamo processando? No, io capisco bene, perché è difficile comprenderlo. La signora D'Addario non sa neanche quante registrazioni ha fatto, da quando è stata messa sulla strada. Io credo che è difficile capire per una persona che non viene picchiata, portata appunto a battere, portata negli alberghi. È difficile per una persona normale come me e lei, che hanno una vita abbastanza semplice, capire che cosa significa questo. La signora D'Addario non si è mai più liberata del registratore, da quando solamente con il registratore è riuscita a incastrare il suo protettore. Nessuno le credeva. Lei ha 2000 referti medici, li ho contati io, uno a uno. Ha più o meno lo stesso numero di denunce, ma è riuscita a farsi capire, è riuscita a farsi accettare solamente quando, oltre le denunce formali, ha portato le cassette. Da allora la signora D'Addario non si è più privata del registratore. Quando è andata a Palazzo Chigi, è andata semplicemente come andava da tutte le parti, Per lei Berlusconi e un altro uomo era la stessa cosa, non ci ha neanche pensato e neanche le ha ascoltate. Poi dopo i mesi successivi, quando sono cominciate i pedinamenti, le minacce, il pugno in faccia alla mamma, eccetera, eccetera, lei ha cominciato a pensare di avere in mano delle patate molto bollenti e siamo arrivati poi al giudice, siamo arrivati al magistrato, eccetera, eccetera. Per quanto quindi mi riguarda, aspetti un secondo, prima di questo, se faccio un'altra domanda per chiederle, nella sua impressione, si rende conto solo dopo essere andato come da un qualunque altro cliente a Palazzo Grazioli la prima e la seconda volta, e quindi nella sua impressione la Dario dovrebbe essere del tutto aliena da una rete di personaggi tarantini e sopra tarantini, intorno a tarantini, che poi ce la riportano in qualche maniera. Lei questa rete non la vede? Se io ho conosciuto la Daddario come l'ho conosciuta, io metto su di lei la mano sul fuoco. Ovviamente tutti siamo legittimati a pensare di non poter conoscere l'animo umano fino in fondo, neanche i nostri, per diciamo, carità. Le nostre figlie, i nostri figli possiamo conoscere che cosa di cui sono capaci di fare, ma le assicuro che come ho conosciuto io la Daddario è semplicemente una vittima, ma non degli ultimi mesi, degli ultimi 10 anni, ecco. Della no, ma questo lo capisco, negli ultimi 10 anni, però la mia domanda è: se era una vittima, non cos'altro, insomma, l'onorevole D'Alema come diavolo faceva a saperlo prima? Però detto questo, sentiamo adesso cosa ne pensano gli ascoltatori, poi riprendiamo Giro da Mole. Intanto Laura da Lucca, prego Laura, che pensa? Buongiorno dottor Giannino, prima di tutto io la reputo una persona molto intelligente e non ce la vedo a parlare di queste miserie, forse era meglio se una trasmissione così non la evitava. Comunque. Ma può essere, però veda, io sono un po' colpito da questa faccenda, se noi abbiamo per 9 mesi parlato, abbiamo assistito alle 10 domande, le cose, cioè non facciamo finta che se esce poi un'ipotesi di indagine per cui tutto questo può essere figlio di una macchinazione, ma vorrà pur dire che poi noi per 9 mesi abbiamo parlato non tanto, ripeto, della sicurezza intorno al Presidente del Consiglio, ma del fatto che era un puttaniere incallito. Scusatemi un secondo, com'è non bisogna parlare di queste miserie? Io voglio sapere se c'è un Presidente del Consiglio miserabile, puttaniere incallito, oppure se c'è qualche grande giornalista che ha battuto sulla testa della moglie fino a fargli fare l'iniziativa pubblica da una parte e dall'altro montato una cosa a Casoria. Figuratevi cosa posso pensare io di Casoria e di Noemi, cioè, però magari gli ha dato un ruolo terrificante come se fosse uno stupratore di minorenni, perché di questo si è parlato per mesi, e poi alla fine è diventato uno sfruttatore seriale di prostitute. Però voi capite che se adesso invece siamo a una cosa per la quale è ricattabile perché la sicurezza non funziona, proprio ho l'impressione che sia leggermente diverso per la politica italiana. Io, siccome non ci capisco, dico, tentiamo di capirlo tutti insieme, ma reagisco con passione all'idea che è meglio non occuparsene, perché se non ce ne occupiamo, scusatemi, vince chi sui giornali le spara più grosse, cioè vince chi fa una campagna per 9 mesi dicendo puttaniere, e a me questo non piace. Poi Berlusconi lo posso considerare uno che le tasse non le abbassa e non mi va bene, però di fronte a dire puttaniere, allora tentiamo di capirci, perché se no, ripeto, passa il principio chi è più forte sui giornali, pam, ti mette il timbro. E Laura, poi io rispetto come la pensa, ma è per capirci perché ce ne occupiamo. Prego. Secondo lei allora lei questa trasmissione la sta facendo in difesa di Berlusconi? Cioè, no, una povera, io la sto... mammoletta, no, una povera Laura, mamma. No Laura, la sto facendo perché se Panorama se ne esce dicendo guardate c'è un'indagine, c'è una rete dietro e così via, tentiamo di capire se questa indagine c'è, se questa rete c'è o non c'è, che rete poteva essere, visto poi le indagini sulla sanità in corso in Puglia, no, dove sono orientate e così via. Beh, a me che Berlusconi sia una mammoletta o meno non è il punto è tentare di evitare che siano allineamenti mediatico-giudiziari quelli a dettare l'agenda all'Italia. Questa è la mia opinione, perché se no io non dico, ognuno fa il suo mestiere, è chiaro che Repubblica fa benissimo a farlo, è chiaro che Peter Gomez fanno benissimo a perseguire una linea editoriale e politica che parte dal presupposto che Berlusconi è lo schifo dell'Italia, ma io non mi metto a discutere di questo, dico semplicemente che di fronte alle campagne dell'anno scorso la novità è Panorama sostiene che ci sono delle indagini per cui anche agli inquirenti ciò che portò a quella concatenazione mediatico prima che giudiziaria non convince. Beh, non mi sembra una cosa, però io l'ho interrotta Laura, quindi dica pure, perché sennò sembra che poi errore, parla sempre lei. Prego. Scusi, No, volevo dire che abbiamo capito, però, a prescindere dai ricatti, che Berlusconi è un puttaniere, scusi, abbia pazienza, e che le puttane che lo frequentano erano, cioè lui prometteva a queste signorine, queste escort, un posto al Parlamento europeo. A parte ricatti o non ricatti, non è un atteggiamento, insomma, consono a un presidente del Consiglio. È una persona, bisognerebbe che qualcuno dicesse a Berlusconi che per il fatto che è il presidente del Consiglio lui non può fare tutto quello che vuole. Deve avere un atteggiamento un pochino morale, voglio dire. Insomma, abbiamo saputo che c'ha il lettone dove ci portava tutte 6 o 7 donne, a parte poi che quella virilità sbandierata. Io non ci credo, comunque, no, non ci credo proprio, E poi non riesco a capire che il Presidente del Consiglio perché deve gloriarsi di non essere un santo e di frequentare queste signorine che lui non pagava, che però pagava Tarantini. Voglio dire, è una cosa veramente disgustosa. No, ma questo io posso essere d'accordo, però se ne è gloriato lui o sono stati i giornali a buttargliela? Scusi, perché sa, io l'ho visto stentare a difendersi più che gloriarsi, perché la materia è così scivolosa, come giustamente dice lei, che prima che gloriarsene. Eccoci tornati in studio dopo l'ipotesi di complotto lanciato da Panorama intorno al caso Daddari e Tarantini Berlusconi. Peter Gomez, due parole proprio, perché sennò non ci capiamo. Certo. Tu fai benissimo a fare questa trasmissione, Panorama, Il Fatto e tutti gli altri giornali fanno benissimo a cercare di capire come sono andate le cose, come fa bene la magistratura. Detto questo, dobbiamo ragionare su due punti che sono oggettivi. È evidente che, come in ogni inchiesta giudiziaria, questa inchiesta giudiziaria coinvolgeva pesantemente anche il centro-sinistra, perché, detto chiaramente, come hai detto tu, Tarantini le sue protesi sanitarie le vendeva in una regione contro negli ultimi 5 anni dal centro-sinistra, e aveva rapporti anche di mazzette, di donne passate a politici del centro-sinistra. È evidente che ci può essere stato, e molto probabilmente c'è stato, un interesse politico da parte del centro-sinistra per, da una parte, sottolineare quanto la questione Tarantini coinvolgesse Berlusconi, e dall'altra magari possiamo arrivare, ma questo è proprio magari, a pensare, per tentare di condizionarne le sue dichiarazioni facendo in modo che non parlasse di alcuni esponenti piuttosto che degli altri. Questo è tutto evidente. Arrivando però al punto, complotto cosa vuol dire? La Daddario l'ha mandata qualcuno a incastrare Berlusconi. Bene, se l'ha mandata qualcuno, servizio segreto o potenza straniera che sia, o politico avversario di Berlusconi, poco cambia e poco importa dal punto di vista politico, non giornalistico, di ricostruzione delle cose, perché, ribadisco, non è una questione né etica né morale. Berlusconi è il Presidente del Consiglio di tutti gli italiani, è al corrente di segreti di Stato, ci governa bene o male, non ci interessa, dovrebbe sapere che il ricatto sessuale, la trappola sessuale è alla base di ogni ABCD spionaggio. Questo viene fatto sempre e comunque, e per questo quando uno fa il Presidente del Consiglio non si può comportare come fosse il proprietario di televisioni. Poi, se ci invitasse, ci divertiamo tutti, ma lui è Presidente del Consiglio. Secondo punto, mi pare difficile pensare che la Daddario vada lì con l'idea di incastrarlo, perché, ribadisco, ci va due volte. La prima volta viene invitata a rimanere a dormire e si rifiuta, questo è registrato. A quel punto non poteva essere più certa di essere invitata una seconda volta. Quindi dobbiamo pensare a qualcosa che è avvenuto dopo, come sta indagando eccellentemente Panorama su tutto questo. Dobbiamo capire. Ma i verbali che sono usciti segretati sono usciti come in ogni inchiesta giudiziaria importante, perché perché i giornalisti erano bravi e hanno trovato qualche fonte, oppure c'erano in mente, c'erano delle altre cose, eccetera eccetera. Dobbiamo capire tutto. Ma è come dire, a Milano, come sapete, è in corso, l'hanno scritto i giornali, un'inchiesta per stabilire se davvero, come sostengono alcune fonti, la famosa intercettazione fra Fassino e consorti, in cui Fassino diceva siamo padroni di una banca e faceva una pessima figura, è uscita sul giornale della famiglia Berlusconi prima della sua trascrizione e se questa intercettazione davvero, come sostengono alcune fonti, sia passata addirittura per Arcore, cioè Berlusconi abbia avuto un ruolo in questa enorme fuga di notizie. Bene, anche se il Premier avesse avuto un ruolo in questa enorme fuga di notizie, quel comportamento di Fassino, l'inchiesta, il contenuto giudiziario rimane. Si tratta semplicemente di uno sfruttamento, tentativo di sfruttamento politico della vicenda, su cui è giusto ricostruire tutto, ma non confondere i due piani. Berlusconi in questo caso, avendo frequentato decine e decine di ragazze immagine, a pagamento, non dico prostitute, si è reso oggettivamente ricattabile, è vittima solo di se stesso. Poi se la D'Addario era una dei servizi segreti, peggio ancora, questo dimostra la sua impudenza. Io sono d'accordo, vedete, con tutto quello che ha detto Peter, tranne che su un punto, cioè io sono d'accordo sul fatto che è un bene approfondire, io sono d'accordo sul fatto che insomma il Coté pugliese era quello che era, questo probabilmente consentiva a qualcuno di sapere, cosa diversa, bisognerà appurarlo se qualcuno ne era regista della faccenda della D'Addario, chi l'ha conosciuta, cioè l'autrice del libro Maddalena Tulanti, tende a escluderlo. Poi, quando si arriva al punto, nella conclusione di Peter, di dire, quindi il Presidente del Consiglio però è vittima di se stesso, e anche su questo sono d'accordo. Quello che però mi trova un po' in dissenso è sul fatto che, dice, distinguiamo il rilievo politico, quello giudiziario, dal fatto che poi se un verbale, per esempio quello della telefonata Fassino abbiamo una banca, o se i verbali, quelli della D'Addario e così via, vanno su Repubblica, vabbè, ce li porta qualcuno che non dovrebbe portarceli, vabbè, quello è secondario. Si può essere che sia secondario rispetto, Peter, alla vicenda penale in sé e al significato politico in sé, cioè Fassino che dice quella cosa a consorte e Berlusconi che conduce o conduceva, spero che abbia smesso, quel train di V che conduceva. Ma il fatto è che l'allineamento mediatico-politico diventa poi la faccenda attraverso la quale si determina l'agenda politica, e questo a me, devo dire, continua a sembrare anomale. Paolo da Piacenza, prego Paolo, che pensa? Sì, ciao, buongiorno a tutti, niente, volevo fare una piccola, cioè quello che penso io di tutto questo, certo. Anche perché in ogni caso quello che avete detto è tutto giusto, nel senso anche quello che dice Gomez, anche parte di quello che parla del direttore di Panorama. Il discorso è che purtroppo quello che avviene sempre anche in Italia è che si fanno sempre delle prime pagine, almeno dal mio punto di vista, si fanno delle prime pagine dei giornali come se fosse già tutto risolto, come se si fosse già capito tutto, e poi quel momento in cui c'è la ritrattazione, perché magari si torna indietro sui propri passi, perché si scoprono altre cose, la replica è in pagina 17 in fondo a destra, dove nessuno può vedere magari determinate cose che si sono dette e fatte. E questo mi sembra, abbastanza. Paolo, qua il problema è che la campagna di Repubblica, parliamoci obiettivamente, è fallita l'anno scorso, è fallita ed è poi diventato il boomerang di presidenti di regione del centro-sinistra, che anche loro conducevano una vita con cose delle istituzioni, mettendo insieme sesso privato eccetera eccetera da anni e così via, e si scopre che cose simili ci sono, quindi non solo è fallita, è diventata una maniera per far esplodere pezzi di cose un po' dovunque. Questo è poi è il succo della faccenda, ma mi rendo conto che il Presidente del Consiglio è il Presidente del Consiglio, non lo confondo con altri livelli di governo più bassi eccetera. Dico però che la questione di dire ecco il violatore unico, l'atavico incarnatore di questa incredibile incapacità sua di attenersi a costumi, cerimonie, protocolli e rispetto delle leggi, e alla fine poi boom, scoppia in mano, perché diventa invece un paese in cui classicamente la classe dirigente, e non accomuno tutti, ma vede episodi analoghi, paragonabili, meno gravi perché è diverso, ma però li vede boom, boom, boom, boom, esplodere dovunque, anzi, e ogni volta con il sospetto che ci sia la controparte che con un magistrato, con un amico politico, con un fornitore della sanità crea l'habitat, poi alla fine fa esplodere il caso, si mette nelle mani di qualche magistrato più o meno compiacente a seconda del suo sospetto colore politico nel fare l'indagine, e poi tutto questo esplode prima sui giornali. Beh, questo è un paese di matti se funziona così. Questa è la mia sensazione. Giorgio Mulè, non ti chiedo a questo punto qual è la fase successiva, vedremo venerdì, però l'impressione che hai dopo la copertina, dopo il dibattito di oggi, che è poca cosa, ma che testimonia come poi la gente su questo continui a vedere le cose un po' per appartenenze più che per curiosità sugli sviluppi in corso. Tu, l'opinione che ti sei fatto della D'Addario nei mesi, è più o meno vicino a quello di Maddalena Tulanti, una vittima e basta, o invece per quello che sai della politica italiana da quelle parti e della magistratura, che poi fa un cambio di passo, pare anche nei mesi da quelle parti, si può pensare che dietro alla vittima ci sia anche qualche, non dico uno, ma qualche burattinaio? Guarda, io non vorrei apparire un marziano anche rispetto a tutto quello che ho sentito da Peter, dalla collega Tulanti, dagli ascoltatori, però a costo di apparire un marziano farò un discorso stringatissimo in un minuto. Io non voglio dare giudizi sulla signora D'Addario, così come non voglio entrare in alcuni discorsi di tipo politico, cioè non vorrei far trascendere o discendere da quello che sta accadendo un giudizio politico su Berlusconi. Peter sposta tutto l'asse, va bene l'inchiesta, va bene cercare di capire, però Berlusconi ha fatto questo, non è... ok, a me tutto questo non interessa. A me quello che interessa giornalisticamente, facendo questo lavoro e non facendo il politico o facendo un giornale che deve indirizzare politicamente, io vorrei raccontare dei fatti, vorrei e voglio capire, così come mi dicono, ci dicono da Bari, che cosa è successo quando la signora D'Addario è stata presentata a Tarantini, che cosa è successo prima che i verbali della signora D'Addario finissero sui giornali con le registrazioni, che cosa è successo prima che i verbali di Tarantini finissero sul Corriere della Sera, che cosa è successo se un politico del PD si incontra con un magistrato della procura, che cosa è successo dopo. Io vorrei ricostruire gli eventi, dopodiché vi lascio a tutte le vostre considerazioni, il puttaniere, il non puttaniere, non me ne frega nulla, io voglio capire che cosa è successo, io non faccio l'ausorgan di, della popolazione. Ne fai il retroscenista, ti occupi di capire i fatti, quindi grazie a Giorgio Mulè, direttore di Panorama, grazie a Pietro Gomez, giornalista del Fatto, grazie a Maddalena Tulanti, vice direttore del Corriere del Mezzogiorno, grazie a tutti voi, scusate se mi sono appassionato, ma tutte le volte che mi si dice che se scelgo un tema sono un cretino, in qualche maniera tento di spiegarmi, grazie in regia a Pietro Lacorta e grazie a Alessandro Marco Tulli, come sempre, redazione. Linea a Giornale Radio, appuntamento a domani.